qua sono contento. Proverò la matto paura, anche se non si trova più, telefono a mia cugina a Milano e me la faccio mandare. Ce l'ha? No, lui va a comprarla per me. Ah, perché non la fanno più? Lo so, ma già si trova lì. E qua no, lì la matto paura è una cosa. Lasciamo per sì, la Mantova 5 come seconda opzione. La Mantova Turbo, ragazzi, sì, va bene, ma la capisci. Cioè, la Mantova 1 è proprio silenziosa, è un amore. Io ce l'avevo, non so che fine ha fatto. Ce l'ha girata, hanno smantellato tutto. Sì, aveva un bel grosso lineare da un kilowatt, andava in banda laterale quasi 2 kilowatt, fatto un botto, e reggeva bene. Che fine ha fatto? Il lineare, guarda, è una storia. L'ho dato a questo pezzente, ma mi ha fatto un assegno bruciato praticamente, a vuoto. Se andate a passare un buco. Ma ti faccio questo, ti faccio quell'altro, ti do prodotti, vedi che dacio, una mazza di riva. Guarda, non so che Dio l'ha mantenuto, ecco di loga. Mamma mia, ma quando mai? Poi quelle cose vanno utilizzate in una certa maniera, non è così, no. Non è che pigli uno che attacco. Ci attacco una cosa del genere. La poi 5 minuti grazie c'è un fumo. Adesso ci vuole il capo grosso. Deve avere l'antenna a posto, cioè no, non è così, no, ma trattare queste cose. Ma io avevo l'RG 213, Mantova 1 sotto, dirò che pompava un bel 6 metri di palo e più la Mantova 1, tiranti, era una bella posizione, mi c'era la fessura e andava. Cavolo, una sa cosa, Mi ricordo che un periodo eravamo in coso con Claudio, se lo ricorda Claudio, parlando con la buon'anima di Giampaolo Silvestri e Porto Torres, a vedere chi passava di più. E Silvestri ha detto, gli gentili sono i suoi di Sassari. E vabbè, che allora era un po' con tutti così, Lì c'era molta più gente, era diverso, era più bello. Si facevano i giochi, calcio a tesoro, dai, si riuniamo tutti i cimbia lì al quadrato, insomma, tutta una fregossa. I tipi sono cambiati, non c'è più niente, poca roba, me ne passa di ragazzi, me lo va la china, fate un voto. Sto entrando poco per quello, non mi attira più. E vabbè, dopo come fai, si fa, e cosa devo fare? Piano piano, purtroppo se non si creano altre generazioni cosa fai? Se trovo chi vede, vedo tutto io. Cappa, a me finché c'è rimane tutto com'è, non mi interessa venderlo. Non mi interessa perché è sempre una cosa che mi è sempre piaciuta sin da ragazzino. E ho sempre sognato di avere una stazione come ce l'ho adesso. Cioè almeno con un'antenna come si deve, l'ho sempre sognato. Che baracchino c'è? Questo che sto usando adesso? No, vabbè, i baracchini non è che siano chissà che cosa. Questo è un 750 Intec Plus, questo sto utilizzando, poi c'è un Alfa Yeti Zeus, poi c'è un altro Intec 550 Power, no, ma di quelli sono contento, cioè, però l'antenna sul tetto io non ce l'ho mai avuta e per la verità mi sono tolto una soddisfazione, là. Ecco, no, io ho sempre ho barattini buoni e niente. Quindi, tutto è microfono sempre da tavolo, mi piace, sempre piaciuto, me l'ho sempre avuto. Io dico questo, se devo uscire, quando ho rimpiazzato il baracchino dopo tanti anni, baracchino come si deve, antenna, 5 ottavi d'onda, capito? Microfono a tavolo, perché entra con un baracchino che non si, con un altro canale, manco l'azzetto. E allaggio un baracchino buono, 50 che bombe di Canarie va, però adesso me ne volevo prendere anche un altro più con le bande, con le cose, che tu chiedi già per i canali. Anche il macchino omologato per me già va bene lo stesso. Questo qua è omologato. Funziona bene, questo qua me l'hanno regalato. Era che ho una stazione buona per avviarmi, quando ero giù. Solo che mio padre poi ha venduto tutto, va via Galaxy, Superstar, Ranger, va via cose da mille una notte mi giù. Solo che mi mancava l'antenna. Io l'altro che avevo di questo, uguale Gerello, se avessi in bande, 238 canali, CW, AM, FM, USB, SB, l'avevo venduto a mio figlioccio quando abitavo vicino a Milano. Capo, ma se l'hai tenuto? Oh, se l'ha venduto. C'è più. E praticamente l'avevo venduto, mi sembra 500 euro. Già va bene. Capo, già va bene già. Questo qua capo ma è rigarato, era del marito, era. Se n'è andato e la signora mi ha detto, dimmi guarda c'ho questo, non lo vuole, se no ce lo butta, dammi tutto, c'era il cellophane, nuovo, fiammante, cioè non è stato mai utilizzato questo apparecchio, l'aveva messo lì e non ha, era autotrasportatore, non l'avevo mai utilizzato questo apparecchio. Io il primo baracchino che ho avuto nel 74 settembre era il Pace 8030 a 40 canali. Allora era venito e subito mi sono messo la Firenze 2, mezz'onda, cavo RG 213, poi da lì dopo sono volta è venuto l'LMS 200, la Fayette 200 canali, poi il Mantova 1, piano piano mi sono ingrandito. Lineare da 1000 watt e io non so cosa era e adesso non basta, gli anni sono passati, la voglia ce n'è molta meno, poi non senti altro che danno controllo come sono arrivato, cambia questo, cambia quell'altro, mi basta tutta la gara. Se uno ha fatto un discorso, se uno ha dice cazzate, mi basta la gara, cambio canale, spiego tutto e mi guardo la televisione. Già lo so, questo qua dico la verità, per adesso è un apparecchio omologato, è bellino pure, perché io qua c'ho una cosa, c'ho un tasto che schiaccio e va tipo cosa ne so, qua in scanalizzazione, dove sente la persona parlare si blocca e io so che è lì, capito? Io c'ho il ricevitore pure qui, ma se lo scanner vai si ferma verso le stazioni forti, quello che c'ho io prendo un po' tutto. E poi c'è anche un ricevitore Bada Maria, a parte di cosa che c'ho, il Mausheng ce l'ho anche quello da stazione che prende un bel canale, un bel, e è alimentato direttamente con a 12 volts. Ma baracchini già ne ho, portate di ne ho. Già ne ho, non mi interessa più niente, anche troppo. Devo smantellare un po' di roba, sto parlando alla ginocchia. Già lo so, già. Cappa. Comunque, già sono contento lo stesso. Poi, un domani, mi voglio pigliare, un bel duchinfoto mi voglio pigliare. Avesse pompa la cosa. Ma intanto, poi ho saputo, ieri stavo parlando al telefono con un'altra persona, voglio fare i numeri perché non c'è frequenza, dice che c'erano portate. Sì. Ma gente che l'ha scoperto dice che nella zona del monte mi hanno detto a me. Non lo so, ma detto, ma il macchino acceso, certo no, accendilo tu lì. Sono venuto in camera, l'ho acceso. E non sento niente, non c'è. C'è alcuni cibi e su 10. Non lo so, perché infatti mi ha detto questa persona, se è quello che pensiamo, a te ti dovrei arrivare a fondo scala. E infatti mi arriva ben forte, io arrivo a fondo scala stesso a questa persona qua. Poi, ma non lo so, io non posso dire niente perché non ho visto nessuna portata e i numeri non ne posso fare. Non penso che arrivi a fondo scala, stai tranquillo. È andato sotto una bassa, una gura macchina, è andato quasi sotto, la portante lì al monte, senza ombra di dubbio. Quella persona che mi ha chiamato ieri al telefono, che ha detto che era in quel punto lì, quella persona mi arriva a fondo scala a me. Addirittura. Io sono aperto per lui. Siamo lì nell'aria proprio perfetti, nella posizione in cui sono io. Ho capito, va. Non è giusto però, Ma pure a me mi stavano dicendo qualcosa, ma non è giusto, non si fanno queste cose, dai. Non va bene. E qua mi arrivava 9:20, mi arrivava. Guarda, da coso, cioè, da Fabrizio lo crepavo come niente, perché lì sono aperto. Ma allora c'è questo. È inutile che tu, per esempio, arrivi forte a una persona, quando quella ti chiude la ricezione, non ascolta nessuno. È inutile avere 500.000 watt che non fai nulla. No, ma l'unico che io riuscivo, lo crepavo bene da coso. Ma proprio lo annientavo, però dagli altri avevo un po' di difficoltà, avevo. Però qualcuno passava da me. Capito? Però io dico sempre una cosa, che se così non si va bene, è da vigliacchi, tempo dietro, non sai quanto ne mette la portante. Uno o due volte siamo usciti in macchina. Quando pensavamo che era quella persona, svitevamo il PL, si arrivava a fondo scala, si è arrivato. E poi invece niente. Non è che tremavo baracchino, e adesso cerchiamo, no, come niente fosse. Beh, signori, io collettivo da mangiare, e invece uscivo in macchina a cercarlo, un dritto. Mai far capire. Sì, qualcuno già l'avete aggattato. Però sempre su posizioni, chi è, chi non è, non si sa. Ma vabbè, non aggiungo, vabbè, posso bene non entrare ma con frequenza, ma che le dai? No, vabbè, ci sono momenti dove non ci sono, ci sono momenti che ci sono, purtroppo, come era 30 anni fa, era adesso, che imbecille, di che mi rompo il canto, ripongo 8 batterie nel portatile e vado a cercarlo. Stai tranquillo che lo bizzicheggio, perché so dov'è, so dov'è la zona, me l'hanno indicato proprio. La macchina c'hai tu? No, con la bici elettrica lo zecco. C'è la bici elettrica. Eia! E cosa avevo? Io 5 minuti so caro monte. Ehi! A più freddo, salti il fresco, invece macchinetta, scaldamento, a calduccio. E sono mancanti, sono come suonato di capo, cioè ce me lo metto in testa, ti bizzicheggio poi, poi ti pizzico però. Faccio un portante di notte, ho due batterie vi vuole, li metto e ti zecco da voi, c'è anche lo smitter già. Antonio, per esperienza ti dico una cosa, non è che c'è gazzato e zecca il bastone, perché secondo chi è l'ultimo rimane andato di cui il muro. A me? Vai, lo pongo a capincio, se lo pongo. No, mi interessa sapere solo chi è, poi da voi sono cavoli suoi. C'è una persona che conosco, lo chiamo, e ve lo dico, non lo fa più perché non vanno bene queste cose. C'è una persona che non conosco, che se lo pongo a capincioscio. A noi c'è capitato tempo fa, messo mamma Sori, Armani, papà Sori, un preso. Ehi, arrivare qua sulle mani, ma poi non andava bene. A meno che esci in 3-4 bastoni, la chiarasura non ti convene. Ma comunque, io lo mangio là, lo usavo male dopo tanti anni, e l'età che ho non me la frutti nulla. se uno mi rompe le balle tu per tu, che io entro in frequenza so chi è, io senza di nuda spiego il baracchino, vado a casa sua e adesso craiano. No, se so chi è, lo chiamo, glielo dico, per cortesia non farlo più, perché no, non andare nei vecchi cosi, glielo dico con la calma, tanto io conosco tutti, mi. Alla fin fine il numero di telefono te lo busco pure, mi. Secondo che sì, perché lo busco pure, glielo dico, guarda, non lo fare più per cortesia, io conosco una all'altro, a chita che d'altro, ci metto poco, mi. E io, da zitto, la miglior cosa è gira la manopolina, spento, capito, mi guardo TV, anche mamma lo sa fumare, ma nessuno io, poi è a forza benzina, a nafta, a zicchiare mortante, mi nafta sai, ma. Non è assai lontano, non ti preoccupare, io invece non è frato benzina, va giù la batteria e mi gira. Ma sempre più da freddo, no, ma tu, perché mi dici che meglio stai in casa a Rugaggio. Ma perché fare queste sciocchezze, no, non riesco a capire, a me mi piace proprietà, mi piace, no, non mi piace mettere la portante agli altri, non mi è mai piaciuta la verità, sono cazzati, so. Lo so, però, anche per quello che ci sono, mi sento mettere un po' a posto qui, è un casino, tu pensi che sono più di un mese, adesso metto a posto la stazione, metto così, metto qua, e non lo passo mai. Forse mi mercoledì che sono a riposo, pomeriggio mi sa che mi smonto tutto, cioè mi smonto tutto con tutta la roba che c'è qua dentro, questo mobile, e me la sentiamo molto per tutti. Questo mobile che ho fatto anche fuori per uscire il PL fuori. Quindi, io ho 1, 2, 3, 4. 4 apparati già col PL pronto. E con le antenne varie. Già è bello già. Anche io qua me lo sono ordinato bene l'altro giorno, mi gioco un po' su. Di buon'ora e mi ho fatto un bel lavoretto. Adesso la trazione è a posto a vero, mi. Ho messo proprio a posto. Guarda, mi sa che metto la stazione su Facebook, così vedrai com'è la mia stazione. Su Facebook? Dicevo che io sono un po' riservato, via. Su WhatsApp magari, mandi la foto. Ma, WhatsApp. Non lo va più di tanto, per WhatsApp. Tanto su Facebook non ho problemi, capito? Ah, capa. Ah, oggi è sempre una cosa bella da vedere. Capa. È inutile avere una cosa bella da vedere che poi a parlare. Ci sono le giornate sì e le giornate no, capito? Poi c'è un bel film, trovo a guardare, quel baracchino, ma cos'è? E ora, ma... Piano piano, un poco che fai bisogna farlo, un poco di QSO. Anche tu c'hai ragione. E poi in campagna c'è tanto da fare, a vedere la lista della maglia. Ora, io ho il mio cane piccolino, ne ho due. Che cerca sempre di saltare, fuggire, cioè fuggire sempre dentro la campagna, siccome qua camminano anche macchine, uno me l'avevo già ammazzato, quindi ho fatto il recinto che è tutto bello richiuso come si deve, niente, è fuggito, ma adesso ho visto dove scappa e oggi mi sono messo tutte le tavole dritte, ma sono stato a cambiare la rete e non fugge più. Poverino. Lo so, i cani sono così fuggini, vattene. Oioia. Beh, tra un po' buca, eravamo fatte, no? Che dopo un paro ghiaccio mi ha fatto la doccia e mi seguo le 22 e 25. Chi sono qui, cracco? E a che lo dici ora? Stamattina alle 3:20 ero già in terra. Quindi, oh vabbè. E mi sa bene, anch'io adesso spiego tutto, mi ci filo nel letto, mi guardo un po' il TV e poi spiego tutto. Va bene, dai tu, dai così, fai quello che devi fare. Ci sentiamo alle prossime, stammi bene, un saluto a Corea, poi ci sentiamo. Ciao a tutti. Ciao Tony, da. Grazie alla chiacchierata. E adesso mi scendo giù e adesso attendo un po' con la ciuffa, mi dà un voto, e via. Ok, ce la sentiamo. Ciao ciao. Ok, ciao ciao, buonanotte. Buonanotte.